Con Lucia Cuffaro, coautrice del libro Occhio all'etichetta, tutto ciò che devi sapere prima di fare la spesa. A Roma, ad Abicura, mercoledì 10 luglio 2019. Lucia, ben trovata. Ce Ciao Federico, grazie dell'invito. lo descrivi cos'è? Allora, questo libro nasce un po' dall'idea, no, di cominciare a girare i prodotti che mettiamo nel carrello e scoprire un po' il lato B, leggere le etichette, ma il problema è che leggere le etichette non sapendo bene che cosa significano queste paroline in realtà non è molto indicativo. Quindi abbiamo provato a fare una piccola guida che potesse spiegare esattamente quali sono le tecniche di marketing e appunto come, no, cominciare a mettere una lente di ingrandimento su quello che ci fa bene e quello che ci fa male. Ma soprattutto non essere fregati, ti faccio l'esempio, bustina del tè, continuiamo a comprare, no? Nei supermercati, negli alimentari, se la giriamo leggiamo che la percentuale di tè all'interno di una bustina è del 5%, tutto il resto sono additivi, insaporitori, profumi che vanno, no, ad aggiungersi a un prodotto che diventa praticamente scadente. E questo l'abbiamo fatto un po' su tante tematiche, dall'alimentazione alle bevande, passando per i prodotti per il corpo, gli detersivi, anche i vestiti, che è un tema abbastanza importante, fertilizzanti e quello, no, che mettiamo, insomma, per curare il nostro giardino. Il tema è ampissimo e vastissimo, purtroppo le leggi non ci tutelano particolarmente, soprattutto perché c'è il famoso, no, effetto cocktail, effetto accumulo, cioè la capacità di assimilare nel nostro corpo una serie di sostanze irritanti laddove, no, ne prendiamo tante da tanti prodotti, che è l'effetto cocktail o l'effetto accumulo laddove quella sostanza la prendi da più parti. Un esempio, ad esempio, tipo fare il triclosan alla Colgate, recentemente ha eliminato questa sostanza considerata cancerogena, che già dal 2016 è stata boicottata in America, l'ha eliminata, però l'abbiamo avuto nei dentifrici per bambini per tantissimi anni, ed è stata tolta da pochi mesi. Quindi, no, l'abbiamo preso dal dentifricio, l'abbiamo preso dagli smalti, l'abbiamo preso dagli shampoo antiforfora, e questa sostanza cancerogena, no, rimane nel nostro corpo, portare ad effetti collaterali. Che cosa abbiamo fatto? Anche inserire però tante buone pratiche, perché altrimenti solo, no, sapere cosa non dobbiamo comprare non ci aiuta per comprare bene, e quindi abbiamo dato tanti consigli semplici e veloci, insomma, per sopravvivere alla grande distribuzione organizzata. Come e dove vi siete mosse e per quanto tempo? Allora, beh, Elena Tioli viene un pochino dall'esperienza del consumo critico. Lei ha un blog che si chiama Vivere Senza Supermercato, ha scritto il libro dallo stesso titolo. Io vengo più dalla crescita felice, dall'autoproduzione, però ci siamo proprio unite in questo nostro feticismo del comprendere le etichette, quindi abbiamo passato un paio d'anni, no, a indagare nelle corsie del supermercato, facendo il foto perché non ci piaceva l'idea di comprare quei prodotti. E quindi giriamo, no, con la nostra borsa, facendo presentazioni, continuando, no, a parlare con le persone che un po' ci aiutano anche ad ampliare i nostri argomenti, ci hanno anche degli spunti di studio. Interessante anche capire, no, come in realtà, ad esempio, sul tema dell'alimentazione la legge un pochino più ci tutela, perché c'è un obbligo, no, di inserire tutti gli ingredienti. Così anche nella cosmetica, ad esempio nei detersivi, non c'è l'obbligo solo di alcuni piccoli ingredienti, tutto il resto è alla mercé della persona che dovrebbe cercare sui siti internet, della Dixan, della Sole, l'elenco ingredienti. E anche lì sul tema dei detersivi è problematico, no? Dei fosfati che aumentano le alghe a discapito, no, della quantità di pesci, a sbiancanti ottici, no, che fanno una modificazione della percezione dell'occhio a raggi UV, e la moltiplicazione del colore, quindi la macchia cema non ci vede fondamentalmente, profumi di sintesi allergizzanti e così via. Quindi il consiglio è comunque di scegliere il biologico, scegliere i piccoli negozi, le piccole catene, autoprodurre, consumo critico, andare un po' nelle filiere parallele dove non è vero che si spende così tanto, no? Come ma costa tanto, ma non ho tempo, invece no, in realtà ormai è alla portata di tutti questo modo di vivere un po' più sano ed etico. Hai detto vari campi, dal cibo al vestiario, ecco, quanti prodotti più o meno avete analizzato? Nel libro libro, in realtà bella domanda, penso un centinaio nel libro, poi in realtà nella vita tanti tanti di più perché abbiamo tutti gli amici, no? Io gioco a beach volley, quando entro in palestra, a parte tutti nascondono shampoo e bagnoschiuma perché preferiscono non sapere, però invece molte mi passano creme, cremine e mi fanno controllare l'inci, no? E lì no, vieni comunque a scoprire, no, shampoo che contengono sostanze come mea, tea, dea, che hanno gli elementi che fanno venire la forfora, o capelli grassi, quindi lo shampoo lo compri e ti fa venire i capelli grassi, così compri un altro prodotto che ti toglie i capelli grassi, però poi si indeboliscono e ne compri un altro che li nutre e così via, no? E aumenta il PIL in modo dannoso. Però insomma, per fortuna un po' ci divertiamo a far questo. Ecco, in questo senso, quali sono, in maniera molto sintetica, delle buone pratiche per tutti e tutte? Allora, guarda, un elemento insomma da considerare è la lunga lista degli ingredienti. Se compro un cibo, come ad esempio del pan carré, e provo 50 ingredienti, c'è qualcosa che non va, perché no, dovrebbe essere pane in qualche modo. Anche la quantità di conservanti, una scadenza molto in là, sicuramente non aiuta la possibilità, no, di avere un prodotto naturale. Controllare sempre la provenienza, e le leggi spesso non ci tutelano, no? Perché magari un grano che viene dall'altra parte del mondo è stato trattato qua in Italia e quindi c'è scritto Made in Italia in qualche modo, quindi è fare comunque attenzione, no? Adesso le leggi stanno anche cambiando su questo argomento. E l'altra cosa è, ad esempio, non so, su prodotti per la cura del corpo, è controllare in che punto dell'etichetta è l'ingrediente quello che dà sostanza. Faccio l'esempio: crema al burro di karité, vai a leggere l'etichetta, il burro di karité è il penultimo, e allora dici vabbè, ce n'è l'1% e sto spendendo 20 euro per l'1%, mi compravo il burro di karité direttamente, così via, no? Quindi un po' avere tanti occhi, ma una volta che si entra in quel tipo di dinamica è anche molto molto semplice. Per essere tutelati e tutelate in qualche modo esistono associazioni di questo tipo? Allora, guarda, molto, vabbè, noi come Decrescita Felice, Movimento per la Decrescita Felice, cerchiamo un po' di fare informazioni su queste tematiche e sicuramente siti da consultare, c'è Salvagente che fa un ottimi, no, non è un'associazione, però insomma fa ottime indagini sul tema delle etichette, anche Green Style, le associazioni dei consumatori, però devo dire che quelle dei consumatori in realtà fanno più comparazioni di prodotti commerciali, ma non consigliano mai le alternative naturali. E in realtà non dovremmo neanche dire alternative naturali, perché l'alternativa dovrebbe essere il prodotto commerciale pieno di sostanze di sintesi, in realtà la via naturale dovrebbe essere quella maestra in qualche modo, quindi sì, mi vengono in mente queste, più che altro. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul libro? Sì, grazie. Allora, vabbè, sul mio blog autoproduciamo.it c'è tutta la scheda del libro, se no Gruppo Macro, che è la casa editrice, meravigliosa, che ci fa sempre pubblicare su tematiche che abbiamo a cuore, e lì si trova anche l'etichetta, insomma si prende in libreria o si può ordinare online da Macrolibrarsi e niente, quindi grazie. E chi volesse venire, ci vediamo mercoledì alla Bicora alle 7. Mercoledì 10 luglio 2019, occhio all'etichetta, tutto ciò che devi sapere prima di fare la spesa. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Lucia Cuffaro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie Federico, a presto.